San Gennaro caccia calcioni, stuscassa cazzo e barisoni. San Gennaro proteggi forte, o scopatore, pietrola corte. Gentili colleghi all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciao Davide, vieni qua a fare massaggio? Centro massaggio bellissimo. Centro massaggio bellissimo, la casa molto bella. Vuoi anche se puoi legare vino, va bene? Sono in giro a cercare un po' di droga e l'unica cosa positiva dell'immigrazione è che la trovi subito. Ad ogni angolo della città praticamente la trovi. 10 anni fa dovevi girare come un matto a far 2000 telefonate. Adesso chiedi tu, hai vera droga? Sì, sì, viene mio amico 5 minuti. Ciao, ciao, viva la zanzara. David, t'ho già detto. Maggioranza silenziosa, sì. Multiculturalismo pure, ma ci vuole la sorca. Voi ragazzi, questa è bella, guarda, non c'è limite al peggio. L'hanno chiamata digiuno in staffetta. Anch'io, io la faccio da un sacco di tempo, ma si chiama dieta. Mamma mia. Beh ragazzi, come si può dare torto a questo ascoltatore? Come volevo si darti può proprio dare la torto? Notizia, guarda, volevo darti la notizia, no, ho fatto il comunicato all'ANSA, ma lo faccio qui alla Zanzara e mi pare una platea, come dire, vasta e dimmi, giusta. Dimmi, qual è la aderirò, notizia? Aderirò allo sciopero della fame promosso dal grande presidente Manconi, perché a staffetta, certo. Da quando, staffetta. Scusa, da quando? Io sono abituato a fare, adesso delle prossime ore te lo comunicherò, della puntata di lunedì ti comunicherò da quando inizierò a fare dal all'alba al tramonto il digiuno dello sciopero della fame, avendo abituato io allo Yom Kippur che non si mangia e non si beve per 26 ore, sai, ti che sarà per facile, me ti sarà non facile. Mi sarà difficile, ma lo faccio con spirito, con proprio con lo spirito di aiutare. Volevo dirti questo, poi sì, su questo possiamo davvero chiudere e augurare a tutti un buon weekend. Lo sciopero, io ti inviterei anche a te a fare lo sciopero della fame, sì, per semplicemente sensibilizzare il Senato, sì, e votare lo Ius, sì, Soli. Allora, ecco, io, grazie, la mia risposta è questo è il tuo appello. Questo è il tuo appello, Cruciani, aderisci anche tu allo sciopero, sì, della fame, esatto, a staffetta, però io poi sono... ti darò un'altra notizia nel corso della diretta, sì, sì, un'altra. La mia risposta, cari ascoltatori, 18:39, sì, la solito ritardo di Barisoni, sì, 2 minuti, vabbè, e ogni commento è superfluo, è la giusto. Mia risposta è col cazzo ragazzi, lo sciopero della fame a staffetta è una buffonata. Il signor Pannella, che fu l'iniziatore degli scioperi della fame, quelli dei radicali, quelli, non l'ultimo Pannella della fame, perché... della sete, sì, quello che si chiamava il grande Sacchiagra, esatto, il grande, io ci ho messo degli anni per capire che cazzo, sì, fosse il grande Sacchiagra, sì, radicale per il Falun Gong anche. Allora, bravo, ragazzi, Falun Gong, bravo. Allora ragazzi, la questione è molto semplice. È una buffonata, il grande Pannella, grande, no, per gli scioperi, aspetta, che faceva prima, si rivolta nella tomba a sentire queste buffonate di ministri che fanno a staffetta lo sciopero della fame insieme a politici, deputati, uomini di cultura, addirittura hanno portato questa questione nelle come se fosse un diritto fondamentale, una di quelle cose per cui vengono violati dei diritti. No, se uno non ha la cittadinanza italiana, e ogni stato regola la cittadinanza come vuole, ha comunque tutti i diritti del mondo, non muore di fame, ha accesso a tutte le scuole, ha accesso a tutte le cose. non mi interessa, è una buffonata universale questa cosa qui di fare lo sciopero della fame, figuriamoci poi a staffetta. Ma che vuol dire poi a staffetta, ragazzi? Ma io, ma è una roba da pazzi. A staffetta, ma fate, perché si, se pensate che siano violati, coinvolgere più se, persone, se cioè, pensa, si vuole far vedere che sì, il paese è se, compatto se, nel pens- ma non c'è nessun story. Paese compatto. Se pensate davvero che sia una cosa fondamentale, fatelo fino in fondo. È una fatelo, sorta di grande catena umana. Fatevi vedere, te la dico così, fatevi, fatevi vedere consunti, fatevi vedere magri, mezzi morti, fatevi vedere con le vene di fuori, uccisi quasi come faceva Pannella dallo sciopero della fame e della sete. Non questa buffonata a staffetta che non vi cambia un cazzo nella vita quotidiana. Dai, su, è una cosa ridicola. Pure il tuo amico Manconi, sentiamo, va, sentiamo, dai, giusto perché è amico tuo. Abbiamo iniziato questo percorso di digiuno a staffetta, il che dimostra molto. Io ho aderito al digiuno a staffetta proposto dal senatore Manconi perché penso che la legge sullo Ius Soli temperato vada messa ai voti in Parlamento. Mamma mia, ragazzi, io non le posso ascoltare queste cose. Mi danno un fastidio fisico ascoltare queste cose. Ma attento, è molto più qua. Sottile. La cosa del genio di Manconi è molto fermi più sottile. Tutti, fermi, fermi. Cioè, solo per dire, il Parlamento, il Senato la discuta. Non dica, non la discuta, il sì, Senato però, la discuta, sì. Poi ci si conta. Sì, ci sì, si conta. Sì, va bene, d'accordo. Allora, a proposito di odio, a proposito di odio in televisione, nella stessa televisione dove, nella stessa rete televisiva dove c'è un programma, la Racchettira, dove fanno una campagna contro l'odio online, giustamente, secondo me, durante la trasmissione Piazza Pulita, sempre sulla 7, fanno sentire la voce di persone al Tiburtino Terzo a Roma. Sentite quello che dicono sugli immigrati, eccetera, eccetera. Ripeto, la stessa televisione dove fanno una campagna di contro l'odio, odio l'odio, contro l'odio online. L'odio online. Bisogna sapersi comportare, si sei nero, si sei giallo, si sei grigio, a noi non ce ne frega un cazzo proprio. Bravissimo. Un cazzo, l'importante è che vi sapete comportare. Certo, si sei nero e non ti sa comportare, te ne vai a far culo al paese nudo. No, mi popolo la sveglia, proprio te ne vai a far culo al paese nudo. Come i pomodori quando li schiacci. Te spaccamo come i pomodori quando li schiacci. Se sei negro e non ti comporti bene, te ne vai a casa tua. Se no te schiacciamo come i pomodori. Capito? Negro di merda, io ti massavo. Sentiamo pure questo, sentiamo tutto, dai. È vero, siamo diventati razzisti, ma costretti. Costretti perché ci hanno tolto la sanità, a noi loro ce l'hanno. E se io non faccio il biglietto mi fanno 100 euro di multa, loro non gli fanno niente. Se io meno a qualcuno, rubo una mela, sono cazzi miei. Loro no, si possono permettere tutto, pure di alzare le mie mani, però a me, se tu negro di merda o quello che sei, mi attacchi, io ti massacro per forza, sono costretta, anche se ho gli anni, non mi metti paura. Cioè, la signora, la vecchia, aveva iniziato anche bene, no? Cioè, a raccontare una cosa. Poi a un certo punto ha detto, se tu negro de merda, se tu negro de merda. No, ma è giusto sentirla sta roba, però. Ho giusto capito. Sentirla. Per combatterla. E intanto ritorna. Io, ragazzi, ve lo metto sempre perché è straordinario. Non posso farne a meno. Ritorna il generale Pappalardo ieri a Nemo. Uno spettacolo, sono come Che Guevara, oh. Senti. È una missione politica. Sono come Che Guevara, non come Fidel Castro. Beh, l'Ariete. L'Ariete. Sono come Che Guevara. Italia sta morendo. Nessuno pensa a dare un regolamento a tutto il mondo. La Carta Universale dell'Umanità deve soppiantare tutte queste malate carte costituzionali che non valgono più niente. Perché noi siamo i sovrani. Signora, lei è regina. Lei è re, siamo noi il re e le regine, non loro, quei cialtroni che stanno lì alla camera, che sono pure abusivi. Poi siccome un compositore parte una sinfonia a un certo punto. Comunque la Carta Universale dell'Umanità in realtà è la carta igienica, Qualcuno mi ha detto che sono un genio rinascimentale. E ho ancora da comporre ben 8 opere, 7 serenate, 2 sinfonie. Poi a un certo punto fa un appello al presidente, non so a chi, ma che cazzo ne so. Signor Presidente, lei da questo momento ha 30 giorni per adempiere all'atto di diffida, mandi a casa questo Parlamento e salvi l'Italia. Ma che cazzo stai a dire? Cioè, a pappa largo. Ma cosa vuol dire a 30 giorni? Ma pazzo, lo dice lui, lo dice. Perché ma una volta questi personaggi qua li trovavi al circo. Io non penso che ci sia. Dov'è questo qui? Dove fa tappa? Il generale pappa largo. Senti seguaci. Sono fascista e sono anche 2 siciliano. Siamo con Pappalardo perché Pappalardo ha pensato all'Italia federale, da Bolzano fino a Pandeleria. Questo è fascista e anche siciliano e federalista. Senti quest'altro. Cristo è dai 92, mi fa vedere le cose sempre prima. È questo governo che vogliono far venire la schiavitù. E per questo i vaccini non li devono fare nessun bambino e nessun italiano. Cristo mi fa vedere le cose prima. Beh, ha radunato la migliore intelligenza italiana. Senti quest'altro. Vogliono sperimentare i vaccini sui nostri bambini. Vergogna, criminale! Criminali! Parenzino, ma l'hai fatto anche tu lo sciopero della fame per lo Ius Soli? Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Quanto sento parlare di MDP, divento pazzo. Che poi sta per multi-double penetration, vero? Allora, il cantante o ex cantante Povia, che è contro l'euro, contro tutto, contro se stesso forse, per dice le lobby, contro le lobby delle banche, contro l'Europa, eccetera. Questi arrivano, cioè gli immigrati vedono le ragazze scoperte, scatta la violenza. Senti. Il problema è quando ci sono le violenze. Tutta questa gente che non ha mai visto il volto di una donna o il dito di una donna viene qui. Vede le ragazze nostre che sono tendenti alla tendenza, un po' mezze nude, la voglia li prende, capito? Gli viene la voglia di prendere le ragazze bianche. Magari su questo potrebbe anche avere ragione, eh? No, cioè, ti prego, non seguirlo la questa no, cosa. La carica sessuale di un immigrato. La carica io sessuale per di un me, immigrato. Per me, io le ricordo solo i bambini, quando i bambini fanno poi dopo quando è finito, bambini, dici, dopo. Basta, finito, col piccione, ecco, l'altra canzone era quella del piccione, poi tutto il resto è impazzito ormai, dai. Lì fai convegni con Fusaro, mi hanno detto. E vabbè, ognuno Fusaro, fa i convegni con chi cazzo vuole, Fusaro, dai. Cioè. Con Fusaro. Un ultracattolico, anzi ultracattolici fuori da una chiesa a Milano, senti che cosa dicono, Piazza Pulita sempre. Senti. Sai cosa ha detto il nostro Signore? Non date le cose sante ai cani e le vostre perle ai porci. E quei migranti lì sono cani e porci. Sono cani e porci. Cani e porci. Migranti, sì, perché? Te lo dico io. Hai visto come si comportano? Ti sembrano nostri fratelli quelli lì? I nostri fratelli sono questi qui. Cioè sono italiani cattolici e credenti. Io vado in giro con la baionetta la sera. Ma perché c'è paura? Cioè. Sì, perché c'è in giro i negri che ti tagliano la gola. E se qualche piffero non importava qui e si mette lì a braccia aperte e venite avanti, magari stavano là, magari. Guardi che il piffero a cui lei si riferisce è il pontefice della Chiesa Cattolica. Santo cielo, da quando? Questo è Fulminato, questo qui, poverino. Francesco Fulminato. Sì. Perché mi fa tanto? Perché non fa il suo mestiere come deve fare. E cosa dovrebbe fare? Portarsi il crocefisso d'oro prima di tutto. Il crocefisso d'oro? Sì. E invece lo porta di le scarpe rosse. Pare che nostro Signore, quando è nato, gli hanno portato oro, incenso e mirra. non è che gli ha portato là i pastori. Il nostro signore quando andava a cena andava dai miliardari, non andava dagli straccioni. Ma sei andato in tutte le case, dei peggio dei relitti. Quali case? Ma in tutte le case. Quali case dei relitti? Ma come? Perché Vangelo hai letto, quello di San Francesco? Ma scusi, ma... Era un altro invasato come questo qui che andava in giro vestito di stracci. Questo San Francesco in giro vestito con gli stracci e il Papa, no, non deve andare a cena dagli straccioni. Ma questi non sono cattolici, cioè non sono dei non pazzi. Non è che esiste solo il Papa, Non è che esiste solo il Papa. Ma no, capito, ma esistono i pazzi. Questi qui sono amici di Ruggero, Sono quelli Cristiano di Ruggero. Cristiano da Roma, vai, Cristiano. Allora, Marco da Milano, vai, Marco. Sì, ciao ragazzi, bellissimi. Buona serata a tutti. Allora, io volevo dire che l'italiano medio è veramente una testa di cazzo, soprattutto anche quelli tanti che chiamano. Non ho capito, voi. Scusami, non ho capito. Bravo, l'italiano medio, ti senti? Sì, ti sento, dimmi. L'italiano medio è una testa di cazzo. Ma questo lo dici tu, ma chi cazzo ti senti tu per dire che l'italiano medio è una testa di cazzo? Non ho capito. Ma chi ti senti per dire una cosa del genere? Che sei l'italiano superiore, te? Ma chi sei? Ma chi sei? Ma chi sei? L'italiano medio, ma chi è? Ma chi è l'italiano medio? Ma chi è l'italiano medio? L'italiano medio è l'80% della popolazione. Perché l'80% sono dei coglioni, secondo te? O sono delle teste sono di cazzo? Coglioni, ma tu chi sei? Tu appartieni al 20%, chi sei? La parte privilegiata del paese, l'intellettuale, chi sei? Non sono l'intellettuale. E allora che dici? Che sei la creme, quello che ci capisce di più dell'80% di coglioni? Ma come ti permetti? Okay. Però almeno io non do la colpa agli immigrati, se questi qua poveretti arrivano qua. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti di dire una cosa del genere? L'80% degli italiani sono delle teste di cazzo. Ma chi sei? Tu hai delle idee, le esprimi. Ma che è un'idea quella? L'80% delle persone sono delle teste di cazzo, è un'idea. Ma questa è un'idea. Certo, ma questa è la mia idea, perché secondo me l'80% degli italiani è una testa di cazzo, perché piuttosto di prendersela con un governo di ladri e che dà i soldi per trattare gli immigrati che arrivano qua, rischiano la vita, vengono qua, vengono trattati come gli animali, perché vengono trattati e stipati nelle ex caserne. Non mi pare, che vengano trattati. Accoglienza. Ma non è il centro di accoglienza. A quale animali? Poi, a quale bravissimi. Dopo ci lamentiamo perché fanno le sommosse. Esatto, ci lamentiamo perché... Perché cosa dovremmo fare? Cosa dovremmo fare? Accoglierli? E chi dice il contrario? Chi dice il contrario? Che dovremmo accogliere negli alberghi a 5 stelle? Dovremmo accogliere negli alberghi con le camere, con le camere con i letti matrimoniali? Ma quale? E chi paga? Tu? Chi paga? Tu? Esiste un'Italia così? Chi paga? Tu? Chi paga? Tu vuoi pagare tu per queste cose? Vuoi pagare tu? Ma che noi già li paghiamo e non i soldi se li incurano. Perché non fai lo sciopero della fame anche tu? Politici, ma quella è un'altra cosa. Dell'ONG. Perché non fai lo sciopero della fame anche tu? Fai lo sciopero della fame. Fai lo sciopero della fame a staffetta. Per lo Iussoli. Io lavoro 12 ore al giorno, lo guadagno pochissimo, però faccio il mio lavoro e non ho bisogno di fare lo sciopero della fame. Aderisci anche però... tu. Aderisci allo sciopero di Parenzo. Allo sciopero per lo Iussoli. Non di è Parenzo, mio. Ma guarda che io non ho l'idea tua o di altri. Io sto solo dicendo che l'italiano, piuttosto di incazzarsi con gli immigrati, che questi qua sono praticamente allo sbando. No, non ti preoccupare. Si incazza anche con i politici. Si incazza abbastanza anche con i politici, non ti preoccupare, non si incazza. Abbiamo una comunque parlando invece di cose un po' più serie, concordo con voi. Chi lo dice che sono serie o no le cose? Lo dico io, perché ha chiamato un radioascoltatore qualche sera fa che diceva che i transessuali sono, diciamo, la sublimazione dell'amore. Concordo esattamente con lui. Io sono un amante della figa, io vado a transessuali. Questo è buono, però questo è buono. Sono attivi perché io sono attivo. Era partito così bene, poi mi scivola su quell'argomento classico. Però devo dire la verità. Allora, tu sei partito bene con una posizione, diciamo, parenziana, che è quella parenziana, anche bella, convenzione giusta. Immigrante, cioè, aspetta, Marco, ma stai tranquillo, ma io ti ho ascoltato tranquillamente. Allora, Marco, ho aggredito e poi ti ho ascoltato. Allora, Marco sta dicendo una cosa: è a favore dei migranti come risorsa, però nello stesso non dei migranti come risorsa. Vabbè, adesso non lo sottilizziamo. Hai detto va bene, d'accordo. Sei un po' boldriniano in questa cosa qua. Sei boldriniano e nello stesso tempo dici: a me piace la figa, vado a transessuale. Mi pare una situazione molto interessante. Aspetta, perché riprendiamo. Transessuale, spiego. Me lo spieghi dopo. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblicità. Ah, rompi il cazzo, figlia, ciao! Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Volevo fare un appello a tutti quegli ascoltatori della Zanzara, ascoltatori per caso li chiamo io, che ci rompono i coglioni a dire che è un programma volgare e tutte queste cose qua. Volevo fare un appello con tutta la serenità del mondo. Non c'è scassata la minchia, cancellate in stazione. Questa è la Zanzara. La Zanzara, ci sono parolacce per tutti. Quindi non scassate il cazzo. E se non vi conviene, cambiate stazione, ok? Per cortesia. Siete la maggioranza della minchia, siete tu e questo Lazzarre. Siete la maggioranza della grande minchia. Quale maggioranza di questo paese, Parenzo? Ma che cazzo dice, Parenzo? Ero in centro a Padova qualche settimana fa e ho trovato Giuseppe, che era di ritorno da una conferenza sul declino dell'uomo, del maschio, nel terzo millennio. E gli ho detto: vieni da Lucia a Pordenone. E lui: no, perché doveva andare a cena nei salotti buoni di Padova. Altro che Parenzo, tu sei un paracula, Giuseppe, dovevi venire a Pordenone con me. E allora andavamo lì sulla strada statale 13 Pontebbana insieme ai miei due amici Francesco e Andrea, e mentre parlavamo con Lucia, di Giuseppe, di Parenzo, un ebreo del cazzo, gli chiedevamo se potevamo palpargli le tette. Andrea, mentre gli parlava, gli palpava le tette e passavamo così una serata tra amici, una serata simpatica. Allora, secondo questo gentile signore, io dovevo venire invece di restare ospite delle persone da cui ero stato invitato a Padova. Dovevo andare con loro dalla mia amica Lucia da Pordenone, che loro non avrebbero conosciuto senza il contributo fondamentale della Zanzara, e per, non so, non si capisce a fare cosa. Cioè, io sarei andata ad una cena snob. Ma hai capito quale serata loro ti proponevano? Su, ragazzi. Cioè, questa però è colpa tua. Ma è colpa non ho tua. Bisogno di Sei loro. Sei tu che hai dato voce a questi miserabili, che si sentono anche in dovere di chiamare alla radio e di spiegare come avrebbero passato questa agghiacciante serata con quella pseudo vecchia prostituta, mentre tu giustamente te ne sei andato in una grandissima cena, in uno dei salotti più ambiti della Padova borghese, e hai beffato tutti quanti con il tuo solito populismo apparente, il ma populismo da radio, il populismo c'entra? Che metti in scena dalle 18:39, perché ci sono sempre ritardi e questo va confermato, esatto, dalle 18:39 fino alle 20:50, perché tu dalle 18:39 in ritardo fino alle 20:50 metti in scena il populismo e poi te ne vai nei più ambiti salotti delle città italiane. No, sei una vergogna, sei una vergogna. Io almeno lo dico, frequento solo i salotti, io almeno mi hanno invitato a cena e sono andato. Il classico populista miliardario che ti tilla la pancia delle periferie, le aizza. Sei una specie di pappalardo della radio, ecco. Questo sei. Sei un pappalardo della radio senza l'attenuante della malattia mentale, che invece, come sappiamo, è ampiamente riscontrata del generale. Ma andiamo avanti. Allora, hanno picchiato e pare anche in maniera pesante. Oh, non mamma. So se stuprato la mia amica Susanna, la prostituta, tutta quella con la bicicletta sulla Salaria a Roma, che aveva anche molti clienti tra i dipendenti di Sky, no? Così disse una volta a noi. Però prima c'era Marco da Milano, che invece era un grande amante di trans, mi sembra, doveva concludere il suo discorso. Allora, perché ti piacciono moltissimi i transessuali, amico mio? No, mi fai concludere un attimo il discorso di prima? Adesso non la facciamo complicata, però. Marco, no. Eravamo al punto dei transessuali. Perché sei così attratto, allora, diciamo, da questo terzo sesso, dico... da questi alieni, da questi esseri? E non sei gay, mi sembra di capire, no? Assolutamente no, sono solo attivo con i transessuali. Io li ho scoperti 2 anni fa, io ho 35 anni. Sì. io sono sempre stato un amante delle donne, delle ragazze, della figa, diciamo la verità, diciamo per le femministe che ci stanno ascoltando, volgare, no, della ma amico mio, l'hai detto tu prima, non essere volgare, sì, diciamolo ai gruppi femministi che ci odiano, che non ci sopportano, noi utilizziamo la parola figa non perché sia un qualcosa di staccato dalla donna, ma per avere un modo di parlare colloquiale, per farci capire da tutti che cosa dovremmo dire, quella parte sì che non è solamente, che non è l'unica della donna, dovremmo fare i convegni sul corpo delle donne, no, noi parliamo di figa, ma non perché consideriamo la donna inferiore o consideriamo la donna un oggetto, per niente, al contrario, ma perché devo spiegare queste cose così semplici a questi gruppi di fetero femministe che ci rompono i coglioni? Marco, vai avanti. Dimmi. E io da un paio d'anni ero costantemente attratto da queste forme sinuose, questi seni enormi, queste gambe lunghe, questo modo di fare particolare che hanno. Ho iniziato a frequentarne uno e ragazzi fanno godere come dei maiali. Fanno veramente godere come dei maiali. Ma lei sono un delle maiale, donne ma chi se ne frega? All'ennesima potenza. Ma tu, Parenzo, dovresti provarli. Tu li provi ma una io, volta. Ma che sei matto? Io non provo proprio niente. You, no, you try transsexual, you never go back. Questa è la cosa. Never go back, è vero, ragazzi, ma ti fanno veramente godere. Ma poi in che anche senso, sua? Spiegami. Allora, no, fanno cosa un orale. Spiegami. Io sono un ma bel cosa ragazzo. Di, ma cosa fanno un dice? Orale, dice fanno un grande e orale. Fanno un orale. Vabbè, questo che vuol dire. Porcheria. Ma questo anche le donne. Anche. No, ma loro sono. Io forse non le ho conosciute di così brave, ma loro. Ma lei non ha mai. Lei non sa neanche cosa sia l'amore, cosa sia l'amplesso. Ma lei no, è semplicemente un maiale radiofonico. Allora ti spiego. Perché sei Davide. Sposato? Io bravo, speriamo Davide, che l'ascolti. Guarda, quanto mi piacerebbe che sua moglie tua moglie ascoltasse lo sa o no? Questa conversazione. No, non lo sa, non lo perché, sa. Ma può anche ascoltare la Zanzara tua moglie o no? Vabbè, speriamo. Marco di Milano. Speriamo. Ce ne sono tanti, eh. Cioè, tu a 35 anni sei sposato con e vai questa a voce che sì. Ma è una confessione, ragazzi. Marco da Milano è sposato e va a trans, è normale. Cioè, siamo alla normalità, non siamo quanto alla stranezza. Caro Davide, quanto non siamo alla stranezza. Vedere la faccia della signora. Quanto vi piacerebbe ma vedere perché? La faccia ma della signora? Ma perché? Ma che te ne frega a te? Marco, ma sei veramente bigotto. Io non ho capito una cosa. Che è la normalità. Marco da Milano, da quanto stai con tua moglie? 12 anni. Da 12 anni. Beh, siete sposato giovane però, amico mio. Giovanissimo. Dopo 12 anni, io molto prima il sottoscritto, ma insomma, dopo 12 anni uno è normale, ha bisogno di emozioni nuove, di provare cose nuove, è normalissimo. Oh, bravo Giuseppe. Ma qual è Giuseppe, il problema? Bravo, libertà da questo punto di vista, libertà, bravo. Confessione e libertà, dillo anche a tua moglie in faccia, vado coi transessuali però, perché Giuseppe, mi fanno godere. Dillo a tutto il pubblico, no, devi fare questo, vado con i transessuali perché vado dopo con i transessuali perché mi fanno godere come un maiale e mi fanno godere come mia moglie non mi fa più godere oggi. Capito? Cioè questa è la che realtà. Bello quando torna a questa casa alle 20:30. Amore, sono tornato. Che bello, che bella quella scena quando torna a casa ma la moglie. Ma non l'ascolta. Non parlerebbe così, se no non lo stanno ascoltando, mi che pare ne chiaro. Sa lui? Che ne ma sa? No, che ma ne lo sa, ma anche una liberazione. Devo dirti la verità, evidentemente una liberazione. Marco si vuole liberare. Cioè si vuole liberare dalle ipocrisie. Questa trasmissione è terribile perché oltre a punire le imprese, a creare problemi nel paese. Sì, perché no, impedisce lo sviluppo del paese questa trasmissione, ma in più distrugge i matrimoni. Cioè anche questo, cioè non solo ha una, come dire, una grave peso economico sul paese, ma anche in più le relazioni familiari e sociali. Distrugge le relazioni familiari. Allora Marco, non ho capito, a te piacciono i transessuali ovviamente non operati, cioè col pisello, mi pare evidente, assolutamente, no? Sì, assolutamente. Assolutamente sì. E usi anche il gingillo, no? Usi anche quell'oggetto dei transessuali, oppure ti è indifferente, perché lì c'è uno spartiacque, chi mamma lo utilizza e chi non lo utilizza. Allora Giuseppe, devo dirti una cosa, sì. All'inizio cercavo di evitarlo, perché sei nell'imbarazzo iniziale. Poi invece ti sei buttato a pesce. Mi sono buttato a pesce, però ho fatto 2-3 boccate, non di più. Bene. Coperto, ovviamente. Coperto, bene. Allora, coperto, ragazzi, grazie per questa dichiarazione, grazie per questa riflessione che ha fatto, grazie molte. Comunque, Davide, sei un grande, eh. Io sto dalla tua parte. Sull'idea degli immigrati, non dica che è dalla parte mia, non lo dica, mi danneggi, stia zitto, l'acquerello. Se lei dice che è dalla parte mia, io l'acquerello. Posso diventare il suo portavoce, Davide, la prego. Allora, ma per carità, ma lei mi infama, ma uno che racconta ste porcherie e poi dice che è della maggioranza silenziosa, getta discredito, ma è una cosa schifosa. Ciao, Marco, vada via, ciao. Vada via, torni a casa. Ciao Marco, ciao. Ciao carissimi, ciao. Tutti a tutti. Signora F. Femministe, dove siete? Dove siete? Italiani! È andata via la linea. Giacomo, è andata via la linea. Sentivo un rumore, un fruscio. Sì, era. È andata via la linea, si vede. Sentivo Italiani! Un fruscio. Certo Giacomo, punto. Giacomo da Genova, dai, Giacomo. Ah. Sì, ciao Curciani, ciao sì. Parenzo. Vai, dimmi. Io dimmi. Guarda, sono giusto di ritorno dal Brasile e ho sentito un po' la vostra trasmissione di ieri su Battisti. Sì, mi sono veramente girate le scatole. Sì, tra l'altro, perché... voglio dire, adesso ti lascio proseguire, Giacomo, tranquillamente. La cosa incredibile che è venuta fuori oggi, David, sulla vicenda Battisti è questa. Cioè, pare che Italia, io non ci credo ancora, finché non è presente sì. Qui in Italia, non ci credo. Anche se mi è venuto un sospetto che in realtà per lui le carceri brasiliane possono essere molto più dure di quelle italiane. Cioè, in Italia liberiamo tutti. Cioè Pietro Maso, un assassino, l'assassino dei genitori, è libero e parla in televisione con il signor Costanzo. Non mi stupirei se tra 15 anni, tra 20 anni, il signor Battisti uscisse dal carcere e fosse intervistato dai principali networks televisivi. Cioè, alla fine, forse è meglio lasciarli in Brasile a marcire nelle carceri brasiliane. Ma Giuseppe, che carceri? Io ho visto ma che vuol dire 15 anni? Due anni in Brasile sì, e io, sì. io lo vedevo sulla spiaggia, non dico Copacabana, a bersi il cocco. Ma che carceri? Sì, cioè io no, voglio dire, se dovesse andare, no, sì, si è fatto anche fotografare a Copacabana con il fisicamente. L'ho proprio visto io lì che si beveva il suo cocco felice con i suoi amici. No, ma assolutamente, ma non c'è dubbio. E il punto è questo, ovviamente io sto parlando nell'ipotesi in cui lo mettano in carcere in Brasile, cioè forse sarebbe meglio che restasse a scontare l'ergastolo o 30 anni, quello che è, nelle carceri brasiliane. Quelle super, sai quelle dove piene di persone, quelle carceri tremende in Brasile, piuttosto che in Italia dove sarebbe un carcere magari fatto bene o comunque messo perché queste persone, questi terroristi vengono messi, non è che vengono messi insieme ai delinquenti comuni, magari vengono messi in celle singole, eccetera. E poi dopo 15 anni per buona condotta. Ma cosa vuol dire un carcere fatto bene? Sempre carcere. Ho capito, io preferisco che alla fine ci ho pensato, preferisco che resti in Brasile a marcire nelle carceri brasiliane. La cosa incredibile è che pare che ci sia un accordo tra Italia e Brasile per riportare Battisti in Italia, però siccome il Brasile non può estradare in un paese dove c'è l'ergastolo che loro non hanno, cioè il Brasile che è un posto dove ci sono sì. c'è un alto tasso di criminalità e dove ammazzano la gente per strada, non ha l'ergastolo. Ti rendi conto che paese da barzelletta che è il Brasile, no? Non ha l'ergastolo. Concordo, non ha l'ergastolo il Brasile, non ha l'ergastolo, la cosa pazzesca. Non lo potrebbero stare in Italia, allora ci sarebbe un accordo per scontare 30 anni in Italia, cioè verrebbero cancellati 4 ergastoli con un accordo tra Italia e Brasile. Ma andate a fare in culo, va Giacomo. Ma guarda, che vuoi aggiungere? Io faccio parte della maggioranza silenziosa, quindi voglio pure semplicemente tu. Che pure tu, lo so. Ma guarda, che quanti ma, siete? Vedi, oh, ma Cruciani, io ci ho provato a non farci parte. La maggioranza, purtroppo, è così. È una cosa che uno ha detto. Cioè, sei parenziano. Bellissimo. A favore dei migranti, a favore dei Rom. Sfumature, ci sono sfumature. Ma su Battisti, ma tu sai perché? Con che motivazione Dilma? Cioè, te le fai le canne o no? Le canne, te le fai o no? Bellissima, è la prima canna, me l'ho fatta a 26 anni. E ma adesso poi, ancora fumi? Zero, ancora zero, fumi. Zero. Quanti anni hai? 36, io sono bravo. 36, sono amico ragazzo, mio, purtroppo. Sono tutti giovani qui alla Zanzara. Giovani, per modo di dire. Siamo 36, giovanissimi, figa, ragazzi. Fermo. Ma sai, allora, ma se una cosa. Fermo lì, che abbiamo le interruzioni noi qui, che non ci vogliono dare ascolto, dai. Niente, mi fece fare un pompelmo ed era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans, David sta andando a trans, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans, David sta andando a trans, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Efebal. Ah, e vabbè, vanno a trans, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento... La Zanzara. Senti la zanzara dopo Focus, senti che botta. Sentirai Cruciani e poi David come lotta. La zanzara ha il merito di dare voce a tutti. Sullo stesso piano stanno leggerutti. Ti accorgerai poi di una verità palese. Stesso peso Sabaeta e Donato da Varese. Sentirai la sigla di Carisio come un carillon. Trovi vegan, nazi, omosessuali come Macron. Poi vorrà partecipare con i tuoi commenti. Allora digli niente, metti viva voce, fagli i complimenti. Donato, che c'è di nuovo? Hai chiamato dicendo sono incazzato nero. Con che cosa? Le solite cose? L'islamizzazione? C'è qualcosa di nuovo? Boeri, gli immigrati? Che ne so, Boeri? Qualche cosa di nuovo? Che ne so? Fuori da manettare, fuori da manettare. Quando dicono che viviamo con le pensioni degli immigrati, è da manettare. Mamma mia, che responsabilità che ho, caro Davide. Che responsabilità. Te ne rendi conto? No, no, stai no. A proposito, Donato è incazzato come una biscia per lo Ius Soli. Per questo sciopero per lo Ius Soli. Donato dovrebbe essere arrabbiato per il mancato funzionamento a Varese di strutture sanitarie adatte per curarlo. Non dire così, non dire questa così. Questa è l'unica cosa. È incazzato, giustamente, come una bestia per questa storia dei politici che a turno, e non solo i politici, anche insegnanti. Cioè gli insegnanti che di fronte ai ragazzini è un'utilizzazione vergognosa dei bambini a scuola, ti raccontano la favoletta che lo Ius Soli è un diritto fondamentale, è un diritto inalienabile. È un diritto, è una conquista da sopportare anche in Italia, no, non c'è amico dubbio. Mio, no, chi vive qui, chi nasce qua, chi soprattutto ha fatto un ciclo di studi di almeno 5 anni ha diritto ad avere immediatamente la cittadinanza e a sentirsi parte di questa grande comunità. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Ormai comunque è tutto finito. All'Università Salesiana di Venezia, l'università fanno lezioni, Salesiana di Venezia, c'è un convegno che parte domani, il 7 ottobre, dalle 10 alle 17 nell'Aula Magna. So che anche tu sei atteso, mi hanno detto. No, domani vado a Brescia. A presentare il libro alla Tour. Cruciani in tour. Che tour? In tour, come allora, Povia. Cruciani come Povia, fanculo, in tour. Allora, convegno sul bondage, pratica sessuale che, come sapete, ma è io ancora devo capire, scusa, adesso parliamo del bondage, io devo capire come una casa editrice autorevole e importante per i coglioni, come la nave di Teseo pubblica una cosa come quella lì. Ma io veramente, devo capirla questa cosa qui. Autore, una delle come dire, delle case editrici forse più autorevoli, più radical chic, la possiamo definire così, è sicuramente una grande casa radical chic. Benissimo. Allora, convegno all'Università di Venezia sul bondage, pratica sessuale basata sulla costruzione fisica del partner mediante legature. Parenzo, tu non ami il bondage, questa pratica sessuale basata sulla costruzione fisica? Cioè, devo dire dottore, che dottore Prosecco flesco, servito a meno dottore Prosecco con patatine fritte da me. Devo non dire, confezionate patatine da tole. In questo convegno si parlerà anche di masochismo, dominazione e sottomissione. E io una delle poche cose che non sopporto invece, lo sai? Il bondage, la costrizione fisica del partner mediante legature, la dominazione e la sottomissione. I don't like. Liliana da Roma, vai, Liliana da Roma. Oh, Cruciani, dimmi, Liliana. Provo grande ammirazione. Posso parlare un attimo? Sì, però vai. Questa non promette nulla di buono. Questa. Non dico l'età perché altrimenti quel piccolo muncolo vicino mi dice la vecchina. Bettina lo dice a sua nonna. Io avevo subito detto che questa non promette nulla di buono. Questa. Quanti anni hai? Carissimo, volevo fare una domanda. Sì, dimmi. A allora, Cruciani che si riferisce a Parenzo. Dimmi. Visto che lui è fratello, chiama fratelli tutti. Sì. Ma perché non è fratello con i palestinesi? Perché? Ma che c'è dei palestinesi? Cioè tu dici fratello al musulmano italiano, perché non dici fratello anche al palestinese? Perché non dici fratello anche all'abitante della striscia di Gaza, per esempio? Dice la striscia di Gaza, se è un buon cittadino, è un buon cittadino. Se si fa esplodere sul lungomare di Tel Aviv, è un terrorista. Lei è un classista. È un classista. Come dice Carlo, un classista. Un classista, un viscido. Un serpente, si piega a volere di tutti. Dove chiaramente ha degli interessi, Quali interessi? Perciò, lasci stare i fascistelli, lei è un comunistello, ma fatalità un comunistello con i quattrini in tasca. Lei, signora mia, ha militato nella Repubblica Sociale Italiana? Era una delle famose donne di Salò? Era una delle famose donnine di Salò, lei? Era una repubblichina? Era una repubblichina di Salò, lei, cara la mia signora? Che faceva lei da giovane, signora? Faceva dei piccoli rastrellamenti? Dov'era all'epoca di Via Rasella, signora? Dov'era lei in quegli anni? Dov'era? Signora mia, dove si trovava? Perché un omuncolo? Spavento. Ma perché un omuncolo? Perché un omuncolo? Scusami, Liliana. Posso parlare un attimo con lei? Sì, ma puoi parlare, Liliana, tranquillamente, puoi parlare con tutti. Allora, scusa, quanti anni hai, Liliana? Quanti anni hai? E dopo mi dice vecchina, ma si sente la mia voce. Ma amica mia, quanti anni hai? Su, Liliana, non mi ricordo. 81 anni. Quanto? 81. 81, ammazza, ma quanto sei avvelenato a 81 anni ancora? È forte sta roba. Cioè, no, sono proprio forte. Sono la cugina di Alberto Sordi. Pure. Va bene? Ah. E non c'entra un cazzo. Non so niente. Sei la cugina di Alberto Sordi? Sì, mia mamma cugina carnale, io cugina di riflesso. In cioè, tutte le famiglie ci sono le pecore. Scusa, Emilia, ma sei una di quelli che vuole pure i sordi dei sordi? Infatti, se vedi, casa mia è un mare. Capisci? Cioè, non ho capito, sei una di quelle che rivendica pure una parte dell'eredità di Alberto Sordi? Non una parte, di quello che si sono appropriati quei mascalzoni. Vabbè, ok, okay. Questa è una storia complessa, però voglio... Liliana... Ma quello non sta a dire nulla, ho il senso dell'umorismo e questo volevo dire. La sera, siccome tento a prendere un pochino sonno, do vivo le mie preghiere, sì. E poi attacco con la mia zanzara. Beh, questo ci fa molto. Questo, beh, amica mia, siamo qui. Però mi fai compagnia. Scusa, i discorsi di sesso ti piacciono o no? Cosa? I discorsi quando parliamo di sesso, cara Liliana, che è una delle. Beh, tesoro, io sono un po' lontana, sono altre vedute. Ormai. Il sesso è qualcosa di meraviglioso. Quando ami una persona, poi se ognuno fa della vita quello che vuole. Ma come passi per le giornate? Pratica nulla per lei, quasi inesistente anche in passato. Comunque, ma che ne sai? Cretino, cretinetti. Che mi pare evidente, una signora così acida. Oh, pardon, ho offeso il panda, mi dispiace. Carina, questa è una bella battuta, questa è simpatica. Pensare al sesso. Penso alle persone come lei, che ecco, sono brava. Proprio da depennare. Non so perché la tengono. Ma lei negli anni 30, dov'era? Come si collocava negli anni 30? Era fascista? Questo mi interessa. No, non ero fascista. Mio padre è stato esonerato politico. Sono una persona che ama le regole, la correttezza, l'onestà. Ok, beh, e mi hanno tutti. Fregato in cinque, tra rumeni e via dicendo. Pure i rumeni. Poco di pensione e tutto quello che mi hanno rubato. Si potevo vivere benissimo. E te stanno sui coglioni chi? Gli immigrati, quelli che arrivano qui, tanti, troppi? Io non lo so, scusami. E i rom, i signori rom, dimmi una cosa forte, amica mia Liliana, quello che ti rode dentro i rom. Hai il terrore dei rom, signora Liliana. Ti credo, mi hanno fregato dentro casa. Hai il terrore dei rom, caro Parenzo. Io ho il terrore. Che devo fare? Vabbè, questo mi dispiace per la signora. E Parenzo come lo giudichi? In conclusione, in finale. Un leccaculo, posso dirlo? Non è bello. Prego, signora, non c'è problema. Un tappeto. Però Parenzo, vai all'attacco della nonna. Vai all'attacco della nonna. No, è una signora. Dire nonnina, la nonnina. No. È una signora che merita. È una signora che merita rispetto. È una signora che merita rispetto. Non offendere. A tutti siamo miserabili. È un piccolo classista. Dipende, miserabili. Miserabili sono quelli che vanno a prostitute, ad esempio. Per me sono dei miserabili. Questo non l'ho ribadito più volte. No, lo ridico. Lo dice a tutti miserabili. Dipende. Dipende. Ciao Liliana, t'abbraccio. Ciao. Ciao Crociani. Ciao. A stanotte alla radio, naturalmente. Interessante questi ascoltatori che plaudono al tuo eloquio. È interessante, però, eh? È uno spaccato interessante. Andiamo avanti. Allora, caro David, devi sapere che tra gli adepti del generale Pappalardo, abbiamo scoperto che c'è una vecchia conoscenza qui della Zanzara, una vecchia conoscenza del trash italiano, che si chiama Salvatore Marino, uomo 100%, che è maschio 100%, maschio, oh, mamma mia, del movimento maschio 100%. Sì, me lo ricordo. Un signore che di solito va in giro con una camicia nera e con una cravatta rossa. Signore enorme, grosso. Salvatore Marino. Io, guarda, ho il numero da un sacco di tempo di Salvatore Marino, non l'ho più chiamato perché non dirmi che lo vuoi chiamare. Sì, lo voglio chiamare assolutamente, però vai all'attacco, ti prego, vai all'attacco. Pronto? Marino? Sì. Sono Cruciani, ciao. Ciao, carissimo, andiamo. Beh, carissimo, adesso. Carissimo. Salvatore, come grazie, stai? Siete Cruciani. Amici. Il maschio amici. 100% Cruciani. No, veramente, attenzione, fermi tutti, io non sono fan. Ho detto che sei il mio fan, entrando nel maschilismo. No, casomai è il contrario, tu sei un mio fan, casomai. Sì, lo so, no, ma io ti stimo sempre. Però quando vieni a Pescara con Razzi a mangiare gli arrosticini, non mi chiami mai. No, ti vorrei indirizzare. Pescara, no, ti vorrei indirizzare però a, un, a un'altra persona che ma abita a Pescara. Ma per carità di Dio, ma per carità, Parenzo, il ma per al carità, 100% ma lei Parenzo. È imbecille al 100%. Il lei numero è uno del giornalismo italiano, il numero uno, posso salutare tutti? No, non devi salutare nessuno, aspetta. Devi salutare nessuno. Il Papa, mi sta seguendo, dimmi. Come il Papa, che c'entra il Papa? Cioè, il Papa è un cristiano, è un mio fan, anche il Papa è un mio fan. Guarda che devi cambiare quei farmaci, io te lo dico, devi cambiare quei farmaci. Allora io dico una cosa semplicemente. Guarda che lo dico al generale Pappalardo, al mio capo, al presidente del Movimento Liberazione Italia. Ecco, io appunto. Sono il suo fedelissimo combattente e militante. Militante, infatti. State per parlando quello, sembra... con un militante del grande generale, il salvatore d'Italia, generale Antonio Pappalardo. Sì, sicuramente, guarda, l'Italia... Sembra una barzelletta. Cioè, io voglio bene a Parenzo perché è un grande giornalista. Sì, voglio dire, no. Ma quando venite a Pescara, da amici proprio, da amici fraterni, cristiani, quello che vuoi. Beh, ma cristiani, volete chiamarmi? No. Dai, io ho saputo che Parenzo ma proprio a Pescara... No. Ma proprio, proprio no. Parenzo abita a Pescara in questo momento. No, no, no, io sono a Roma. Ho saputo, mi sembra che la moglie sta a Pescara. Esatto, bravo. No, alla Rai, ti posso dare l'indirizzo, esatto. Ma mi farebbe piacere anche aprire a offrirgli una cena, un caffè. Ma per carità di Dio, ma perché devi fare sempre... Perché devi fare lo snob, scusa? Ma io non frequento sta gente. Ma secondo te, se io dico... Ma scusami. Del maschilismo mondiale stai parlando. Secondo te, se io stasera torno a casa e dico a mia moglie, sai cara, stasera usciamo a cena con un signore maschio 100%. Secondo te, che una donna intelligente capirà, ma cambia la porta di casa, cambia la porta proprio, ma cambia le chiavi. Tua moglie è una donna intelligente, una donna al 100%, perché io ho anche il movimento donne al 100%. Io voglio dire una cosa, Marino, io voglio è imbecille al 100%, ce l'hai un movimento che così, quello è il più adatto, imbecille al 100%. Ma che dobbiamo venire con il generale a prenderti? Allora io voglio capire una cosa, che cos'è questa unione tra te, Salvatore Marino, maschio 100%, che sei uno contro le donne. Ma no, non è vero. Sei contro sta... il femminismo, la lobby femminista è pericolosissima, è diverso. Tu consideri le donne inferiori, diciamola tutta, diciamola 100. Ma no, inferiori biblicamente sì. Biblicamente, che vuol dire, diciamo, che vuol dire biblicamente? La Bibbia dice Adamo ed Eva, prima fu creato Adamo e poi Eva. Ma che c'entra? Quindi è chiaro che la figura dell'uomo, del maschio, è sempre una figura di alto respiro divino, cristiano, religioso. È la femmina che è stata creata per servire il maschio. Come per servire il maschio? La femmina è stata creata per servire il maschio. Dio, il maschio è Eva. Tu pensi se Eva. Mi presento a casa con questo, cosa succede? Pensa Natalia, ti voglio presentare Salvatore Marino. Ma moglie ti ringrazierebbe, Davide, amico mio. Ultimamente l'ho visto con una camicia nera e con una cravatta rossa. L'ho fatto il primo riunione a Chieti del Movimento Liberazione Italia. Scusa. Con il generale. Ma c'è l'ospedale a Chieti, infatti, no? Di avere c'è una, il generale. C'è una bella... Ecco, come è nata questa unione, diciamo, è questa un salvatore coppia? D'Italia, due salvatori d'Italia. All'ospedale, in corsia, erano ricoverati nella stessa struttura e durante l'ora d'aria, la macchinetta del caffè, si sono incontrati. Ma caro fratello David Parenzo, ma perché dici questo? Salvatore, dai, è una coppia improponibile. Ah, me l'hai fatto star male al povero generale. Ma, metto Salvatore, difendimi tu. Lo voglio, presidente del consiglio. Ma che cosa cosa volete fare tu e Pappalardo insieme? Scusa, spiegami. Semplicemente arrivare a governare, a salvare l'Italia e a ridare sovranità al popolo italiano. Tu e Pappalardo. Sì, sono semplicemente un responsabile della sezione di Chieti. Ma tu non sei non un responsabile. Ma non esiste nulla. Solo tu sei. Ma non è vero, ma sì, ma io simbolicamente rappresento il mondo intero. Le donne in politica secondo te non dovrebbero stare? Diciamo la verità. Beh, hanno creato parecchi disastri. Le donne in politica, sì, certo, parecchio. Le donne parla come generale, ne hanno fatte di leggi del cazzo. Le donne dovrebbero stare a casa, secondo te, naturalmente. Beh, no? Sarebbe meglio. Oggi sarebbe meglio, consigliabile. Sarebbe perché consigliabile. Non è che la casa è un posto negativo. La casa, anzi, io ho difeso... Cioè, ho difeso il ruolo della donna casalinga, che dovrebbe essere anche aiutata dallo Stato. Cioè, lo Stato dovrebbe aiutare le donne a stare più a casa. Perché più a casa, meno danni in Parlamento. Perché ma sul luogo di lavoro, una donna dirigente, manager, per te è una follia, naturalmente. Certamente, sì. Non c'è dubbio. Ti saluto, ciao. Saluto a tutti quanti, la Zanzara. Salutami Pappalardo, va. Salutami Pappalardo. Generale, poi adesso generale. Dobbiamo fare il 10 ottobre, grande manifestazione. Tutta a Roma. Ma quale generale? Ma non è più generale. Trattare questi abusivi dal Parlamento. Mi raccomando, il 10 ottobre. Ma siete quattro gatti. Siete quattro gatti. Sono abusivi incostituzionali. Rivogliamo la sovranità del popolo sovrano. Ma non sai di che parli. Generale Pappalardo. Ma non sai di che parli. Mi raccomando, ciao la Zanzara. Viva la Zanzara. Con questa trasmissione della Zanzara della minchia. Chichi! Comunque ragazzi, Pappalardo and Company, se non ci fossero bisognerebbe inventarli, è la cosa più comica che sia mai andata in scena negli ultimi mesi. Cioè, una roba incredibile. È vero, infatti, guarda, ti leggo proprio un messaggio che mi è arrivato poco fa. A scrivermelo il signor Darik Stogni, proprietario dell'omonimo circo, sì. Il quale mi ha chiesto proprio il numero sia di Maschio 100% sia del generale Pappalardo, perché vogliono mettere in piedi un nuovo numero da circo. Signor Stogni mi ha scritto. Marco da Napoli, vai Marco. Sì, ciao, buonasera. Dimmi caro. Mi volevo riallacciare al Marco di Milano che parlava di trans poco fa. Allora? Premettendo che il discorso di Parenzo non mi sembrava completamente sbagliato, volevo consigliare di portarsi anche la moglie quando va dai trans. Beh, evidentemente la moglie non ci vuole andare, oppure non ha piacere. Di cosa parla? Ma a casa mia non si praticano queste porcherie. Non si praticano queste porcherie a casa mia, ha capito? Mi dispiace darle questa delusione. Perché da me è così. Io capisco che in questa trasmissione che si chiama Il Mondo al Contrario, che è il sottotitolo della Zanzara, ovvero Il Mondo al Contrario, risulta tutto normale, gente che si accoppia con amici e con più persone, coppie che vanno insieme a transessuali, questo e in buono. Questo piccolo mondo dalle 18:39 fino alle 20:50 sembra tutto normale. Ecco, in questo però questo è un piccolo spaccato del mondo, non è il mondo reale, è un mondo di sporcaccioni a cui Cruciani ha il demerito di aver dato il microfono. Scusami, lei, Marco, che è uno schifoso, ma è uno schifoso. Ma no, il fatto stesso che lei telefona è uno sporcaccione. È soggettiva, non sì, Marco, perché un amico, un autorevole dirigente. Non ho capito, perché tu porteresti la moglie da un transessuale insieme a te? Se lei avesse piacere di accompagnarmi, sì, lo farei. Non ho capito, a te piace il genere allora? Ah, sì. Ma lo frequenti? No, per transessuali no, però sei attratto. Sì. Ma sì. Con tua moglie fate giochi a tre, cose di questo tipo? Fatto anche, non troppo spesso, ma l'abbiamo fatto. Beh, non questa è stata un'esperienza malvagia. Appunto. Cioè, siete sostanzialmente una coppia. È un peccato, è una stronzata, è una cazzata lasciarla a casa e tradirla. Come dice Parenzo, e quindi giustamente se la porta dietro in queste scorribande, va bene, e se è normale così, ragazzi miei, che devo dire. Fermo lì, adesso Marco ci racconta nel dettaglio dopo l'interruzione. Ma io dico, abbiamo la sua esperienza, diciamo, di sesso a tre con la moglie, che è una cosa che comincia a diffondersi, anche questo sesso liquido, questo sesso in cui non esiste più la parola tradimento, viene tutto condiviso, anche i corpi degli altri. Ti piace questa cosa, i corpi degli altri? Fermi tutti. Ed è venerdì, crucia fino a notte. Sono veramente disgustato da quello che conducete, è una radio veramente seria della Confindustria. Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! Stronzone! La Zanzara. Devo dire che i nostri politici hanno delle palle grosse, grosse come un elefante. Adesso si sono inventati lo sciopero della fame a staffetta. Ma vaffanculo, anzi andatevene a fanculo, va! Sciopero della fame a staffetta, che è? un giorno non mangiano e il giorno dopo si abbuffano. E vabbè, che spettacolo. Cucù, cucù, Parenzo, cucù, al Lido di Chioggia, apologia di reato, non c'è. Cucù, cucù. Anche a Kiryat Haim, in provincia di Haifa, Israele, si ode una sola voce. Parenzo vaffanculo. Parenzo lechki binimat. Ma è giusto? Sì, abbastanza, abbastanza. Voglio sì, pronunciato male, ma va bene. Vorrei però far presente a quell'imbecille che la Chioggia, lui ha sbagliato il reato, ha detto una cosa, ha detto una follia assoluta, poveretto. Esulta perché questa persona non è stata condannata. Beh, va bene, certo. Sono felice per meno lui, male, ma meno ha male, sbagliato meno clamorosamente. Male. Una grande si chiama apologia di fascismo. Non c'è nessuna apologia, per perché altrimenti l'avrebbero condannato. Non la, io rispetto la sentenza del tribunale, ci ovviamente. Mancherebbe pure. Rispetto ragazzi, quella sentenza, rispetto alla tempo sentenza. Tempo perso, carte buttate, burocrazia smossa per nulla. Questa tu sei l'Italia. Tempo perso, questa tu è sei l'Italia. Tempo perso. Ascoltare grazie te anche, è tempo perso. Grazie anche al contributo fondamentale di questa trasmissione, il signore di Chioggia, il come si chiama, il bagnino del, di quello stabilimento a Punta Penna, è stato assolto perché abbiamo fatto una grande battaglia per la libertà di espressione. L'avevano accerchiato, lo avevano accerchiato, lo avevano massacrato, lo avevano ha fatto una goliardata e i magistrati purtroppo hanno ritenuto di non ravvedere quel allora, reato. E nel frattempo vengo ad apprendere dal quotidiano Il Fatto, dal quotidiano Il Fatto, che l'uomo dei diritti del Partito Democratico, il tuo amico Khalid Chaouki, Khalid sì. Chaouki, onorevole ha un Khalid problema Chaouki, però sì. a riconoscere gli stessi diritti, cioè quelli di, delle persone che lavorano per lui. Da 5 anni non versa i contributi all'assistente parlamentare. Questo io non lo so. Da 5 anni, signor Khalid Chaouki. No, ripeto, se è vero vuol dire che si è integrato benissimo. Sicuramente ci sta ascoltando, perché ascolta spessissimo la Zanzara, signor Khalid Chaouki, e allora chiamasse. Io non credo, noi. Spiegherà no, tutto. No, no, lui spiegherà, detto, ha detto tutto risolto, pagherò. Ha detto tutto risolto, pagherò. Pagherò ecco, significa, appunto. Cosa appunto. Significa questo? Che per qualche anno non ha pagato i contributi al suo assistente parlamentare. Se ha sbagliato deve pagarli. C'è ovviamente. Stato un se ritardo nel versamento pagarli. Che è dovuto a problemi personali, non si capisce di chi, dice, ma ora abbiamo trovato un accordo. Ma si vede che ha... Ragazzi, la realtà si vede è questa. Che aveva problemi personali tutti di liquidità sua, lui sta ha tanti facendo figli, anche lui mica è uno ricco, è una persona che lavora. Ma che c'entra, i contributi per chi lavora per te, che cazzo c'entra che è un uomo ricco, scusa. Ma non lo so adesso, io non sono nelle tasche di Khalid Chaouki, è bello non sono fare nelle tue tasche. Essere a favore dei diritti col culo degli altri, questo è il punto fondamentale. Cosa vuol dire questo? È bello fare il paladino dei diritti coi diritti degli altri, però per essere sulla stessa falsariga, dai su ragazzi. Allora, Marco da Napoli ci stava raccontando la sua meravigliosa esperienza con la moglie insieme ad altre persone. Caro Marco, quante volte siete stati, come dire, avete fatto uno scambio di coppia, avete messo in mezzo un'altra persona, donna o uomo che sia? Quante volte, amico mio? È stato poco, perché poi abbiamo cercato anche altre coppie, ma non è stato facile trovarne che ci... No, non ho capito, non, ti sento poco, scusa Marco, cerca di parlare a voce alta, dai. Sì, dicevo, non è successo tante volte, è successo con una coppia sola ed è successo 3-4 volte . E ci siamo divertiti. Poi abbiamo cercato altre coppie ma non ne abbiamo trovate chissà di altrettanto come mai, carine appunto. E simpatiche vabbè, no, perché non è facilissimo Ma Davide, ma c'è gente che fa queste cose qua, ma qual è il problema? Senta, ma perché non andate a una cena, a un cinema e poi non ve ne state ma nella vostra intimità anche, voi due anziché organizzare queste porcherie con altre ma coppie? A me sembra, perché a me l'idea di invitare delle un'altra coppia di amici a casa e poi ci si diverte e non ti fa del male a nessuno, caro ma è ovvio che non si fa male, mica io lo giudico da un punto di vista mio, mi farebbe una certa impressione organizzare delle cene a casa . E poi queste cene si concludono con questi scambi in cui io vado con la moglie del mio amico e viceversa. Beh, qual è mi il sembra problema? Una porcheria, senti, ma non farmi arrabbiare, mi sembra, a me sembra una porcheria. Tu continui a dire: dov'è il problema? Non è un problema, funziona così, siamo tutti così, è la modernità, anche a Confindustria fanno così. Secondo me non fanno così. Secondo me è una porcheria. Vogliamo cioè fare quello che tu. Se, guarda, amico porcheria. Mio, se si fa un sondaggio tra gli iscritti a Confindustria, così, comunque così, ci sarà così. Sicuramente un 20% di persone che praticano scambi di coppia. Che fanno gli scambi di coppia, che fanno le cene e poi le porcherie a casa con la moglie dell'amico. Ma stai distruggendo da 6 anni a questa parte sistematicamente questo paese, l'etica di questo paese. Mandi messaggi sbagliati, fai credere che questi qua che chiamano, questi poveretti, questi qui che sono anche sono egocentrici, sono ma pure una persona per bene, ma Marco. Sono degli egocentrici esibizionisti. Vabbè. Esibizionisti della porcheria sono, ma a me fa schifo e si lamenta dicendo non abbiamo trovato coppie abbastanza simpatiche. Certo, perché siete vogliono degli sporcaccioni. Vabbè, posso dirvelo, Marco, siete degli sporcaccioni. Rispondi e concludiamo questa vicenda. Assolutamente sbagliato il pensiero di Davide, non ci può essere unilateralità. Ma tua moglie da quelle parti, tua moglie? No, si sta divertendo a casa col suo amico, ma lui è contento. Ma vabbè, certo che è contento. Miei. Tu saresti contento di vedere tua moglie che viene, va a letto con qualcun altro, che si scopa con qualcun altro? Se dovesse stare con il suo amico per rispondere a Davide, aspetterebbe me. In che senso? Ah, per guardare, per farti assistere. Non ci starebbe da sola. Cioè, per guardare. Per farti assistere. Per starci insieme, certo. Per starci insieme, è normale. Bello esempio. Caro David, è normale, bello, tutto normale. Bello. Ciao, bravi. Marco, ciao. Ciao chi, dove sei? Ciao chi? Khalid, dove sei? Vai Khalid, vai. Dove sei? Paladino dei diritti senza pagare i contributi all'assistente parlamentare. Amico mio. Ah, ma sta facendo lo sciopero della fame per lo Ius Soli, sicuramente. Vodafone. È un po' debilitato. Sta facendo sicuramente lo sciopero della fame per lo Ius Soli. Questo non toglie nulla alla battaglia per lo Ius Soli, non toglie niente. Dai. Se ha sbagliato, pagherà, ovviamente. Steven da Roma, dai. Buonasera. Dimmi. Buonasera, dottore Cruciano. Io sono molto. Dottore Cruciano, sì. Dimmi. Sì, sono molto disturbato da come stai trattando il problema di Ius Soli. Ma tu che sei di nazionalità? Io sono della Nigeria. Della Nigeria, ottimo. Io sono nigeriano, sì. Posto dove i diritti umani non vengono proprio praticati al massimo. Ma che c'è? Purtroppo in Nigeria ci sono questi problemi che voi sapete. Vabbè, allora Steven, siete anche complici. Sei complice. Tutto quello che succede in Nigeria. Ma adesso, voi italiani siete complici. Noi italiani siamo complici in che senso? Certo. Perché cosa siamo complici? L'ENI sta svuotando le tasche dei nigeriani. Beh, adesso, amico mio, la stai dicendo piuttosto grossa la cosa. E l'ENI no, e l'AGI stanno svuotando le tasche dei nigeriani. Scarone. No. E che ha fatto? Ex presidente, sì, e che ha fatto? Cosa ha fatto Scarone? Che ha fatto? Miliardi che? Di nigeriani, dollari che ha rubato. Ma amico, vai calmo. Io conosco personalmente Scaroni, e lei non può fare una diffamazione simile. Esatto. In Italia, che è cresciuto in Italia. Lei sta facendo una diffamazione. Io conosco personalmente il dottor Scaroni e lei sta, lo conosco personalmente, non posso dire che è un amico perché non è un amico, è una persona che però conosco. Ha detto che ruba i soldi, siccome non risulta. Lei è un criminale. Non si possono fare, come dire, dire cose così a caso. Vabbè, ma e soprattutto è infangare la storia di un manager. Oh. No, vabbè. Attenzione, ci sono i giornali. Sì, che Steven, hanno però ci devi parlare. Io ci devi parlare, ci devi parlare con un sì, ma devi parlare con un telefono che funziona, amico mio, oppure devi togliere viva voce. Viva voce, auricolare. Non ho viva voce, non c'ho auricolare. Vabbè, non so niente. Vabbè, allora cosa vuoi, amico mio? Cosa vuoi? Dice che la colpa del disastro della Nigeria è vostra, è solo vostra. La colpa è disastro della Nigeria, chiaro? No, ci sono anche i non sapete amministrare un cazzo, siete un popolo governato da ladri e banditi, spesso è stato così, per cui non rompere le scale. Che questo 100% vabbè, ma che vuoi Steven, che vuoi, non ho capito. No, non è che voglio niente, voglio che i bambini nati qua hanno senti, come noi regoliamo la cittadinanza sono cazzi nostri, chiaro? No, ma io sono, no, ci no, sono paesi che hanno la, danno la cittadinanza in maniera molto più dura. I bambini nati in America, perché non rifiutano la cittadinanza americana? I bambini nati in America italiana. Ci sono altre leggi, ci sono altre leggi, ci sono altre leggi. Per me la cittadinanza deve essere una cosa che ti conquisti molto più duramente, molto più duramente rispetto a questa legge che viene, per cui si fa lo sciopero della fame. Un ma quale diritto? Ma quando mai? Diritto, non diritto. In questo modo, Cruciani, ma non c'è nessun diritto molto, universale. Non c'è nessun diritto scolpito sulla pietra. Non la mettete in questo modo. No, no, non dico questo. Chi nasce qui ha tutti i diritti del mondo. La cittadinanza è un'altra cosa, dai. Il Parlamento è fatto per fare le leggi. Vabbè, questo non ce lo devi dire tu, caro Steven. Allora, dalla Nigeria dove, no, leggi, dove queste cose non funzionano leggi, perché siete governati in un altro modo. Ciao, Marco da Monza, dai, Marco. Marco. Eccomi. Dimmi, dai. Allora, ti volevo dire, Luciano, io so che via Radio 24 ululano i froci. Bah, non mi risulta, amico mio, anche se fosse non ci sarebbe niente di strano, ecco, niente di male, non ho capito. No, perché questo poi mi fa capire perché tu prendi posizione, capisci? A favore dei cosiddetti froci, dici? Del matrimonio, sì, eccetera. Sì. Cioè, tu stai dicendo Radio 24 è piena di froci e dunque il fatto che sia piena di froci significa che io devo prendere per forza posizione a favore degli omosessuali. Bravo, tu sei bravo, un bravo, coglione, caro Marco, ti posso dire la verità, tu sei un imbecille, un coglione anche normale. Molta vita. Non ho capito innanzitutto perché dovrebbe essere piena di froci, ma non ci sarebbe niente di strano, naturalmente, se fosse piena di froci come dici tu, No, per te no, per te no, per perché noi per normali, te sì, invece, sì, per noi no, perché loro sono anormali gli omosessuali, secondo te? No, no, tu sei anormale che difendi i froci. No, ma i froci sono anormali secondo te? Ma tu dai troppo spazio. Sono per esempio, anormali, F-ball, sì o no? F-ball, per esempio, prendiamo per esempio F-ball, no? Rispetto a te ti mangia il cervello, F-ball, chiaro? F-ball. Cioè rispetto a quello che pensi tu. La signora F-ball che fa la prostituta ti mangia il cervello, capito? Ti lei dice cose sconnesse. Lei dice cose sconnesse. E qual è il problema? Tu che mestiere fai, scusa? Ma io non faccio la prostituta. No, non fai primo nessun mestiere. Poi, seconda cosa, perché seconda nessuno cosa, ti vuole. Come mai tutti i trans vogliono diventare donna? No, non lo so, alcuni sì, altri no, non capisci nulla, è evidente. La mia donna, per esempio, la mia donna vale 5 uomini. Ma che vuol dire che la tua donna vale 5 uomini? Perché è donna. E allora? Senti, amico mio, o fai un discorso. Io, lei è sconnesso, lei mi pare una persona sconnessa. Vabbè, non sarà mai donna. Vabbè, ma non mi interessano questi discorsi. Non riesco a capire una cosa. Inizia a chiamarlo come uomo, non dargli troppa importanza a questi esseri. Ma io dico Luxuria, quello che voglio. Io do importanza a chi mi pare. Ma li guardi in faccia come sono. Sono uomini. È certo che sono uomini, sono nati uomini, non c'è dubbio. C'hanno il pisello. Perché che schifo, non ho capito. Perché che sei? Perché tu invece che sei? Ma perché tu che sei invece? Sei bello? Ti senti bello? Uomo. Tu sei uomo, sì. Certo. Sei sicuro di essere uomo? Bello o brutto sono uomo. Secondo me lo pigli dietro tu. Ma non c'è niente di... Io sono come Parenzo, non lo dici. Secondo me tu sei omosessuale forte. Cioè sei proprio passivo. Sì, ma sei anche passivo. Sono come Parenzo. No, tu sei passivo. Che lo prende in culo. No, ma lei cosa ne sa? Cosa io poi ne non sa ho capito una cosa, scusa. Non ho capito, caro Marco, se tu consideri gli omosessuali inferiori, diversi, malati, come li consideri gli omosessuali? Allora, quelli che vanno a sventolare la bandiera e dire che lo pigliano in culo, secondo me non sono normali. E invece gli altri? Ma gli altri facciano quello che vogliono, ma non bisogna andare a sventolare le cose. Ripeto, guarda Parenzo, non lo dice, vabbè. Dai, fatti i suoi, la sera va a casa, piglia in culo, non lo dice a nessuno, tutti a posto, felici e contenti. Basta, querelato, dai, basta, querelato, dai, querela, dai. No, basta, querela, sto poveretto. Ma che querelare ti poveretto. Ma non è così? Lo querelo, sto poveretto. Ciao Marco, ciao, malato di mente, ciao. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato non... lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! Prendetelo nel culo che vi si allarga la mente, ca... La Zanzara. Cruciani, ma la domanda perché l'Italia non abbia fatto niente fino adesso, non siamo andati a prenderlo con una squadra tipo il Mossad? Semplicissima la risposta. In un paese comunista che cosa vuoi fare? Vuoi andare a prendere uno delle Brigate Rosse e portarlo qua? Non succederà mai, mai. Scarpa assolto, grande supercazzola della procura. Spiaggia fascista? No, articolazione del pensiero. Cazzo. L'unica soluzione per questa immigrazione è deportarli. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento La Zanzara. Impido. Parenzo, ti voglio carico! Allora ragazzi, non so se l'avete letto, ma Lara Comi, che è un'eurodeputata del centrodestra, Forza Italia, ha avuto un problema di stalking, no? C'è un tizio che addirittura era candidato agli Jesolo della sinistra italiana, che l'ha perseguitata per diversi anni. A un certo punto ha fatto un errore, si è presentato in un posto dove non doveva andare perché era troppo vicino alla signora Comi ed è stato arrestato ed è adesso in carcere. C'è una folla di fan che sono innamorate dello stalker di Lara Comi. Beh, pazzesco. Cioè, una cosa pazzesca. Dice l'avvocato, che si chiama Alejani. Era accaduto anche con Pietro Maso. Sì, mi hanno cosa chiesto qua l'indirizzo del carcere, diverse donne, dice il suo avvocato. Vogliono scrivere delle lettere in carcere. Dalle foto l'hanno trovato bello, affascinante, sorridente, con quel tocco di ingenuità che intenerisce. Sono ragazze del posto, cioè probabilmente di Jesolo, ma anche da altre province e regioni. Cioè, lui racconta che questo aspetto evidentemente di uno stalker che va a rompere i coglioni, insegue, si apposta, telefonate, eccetera, eccetera, a un'altra persona, resta completamente indifferente a queste quattro deficienti, dico io, che invece trovano il tizio là in carcere quasi un eroe, quasi una figura mitologica che sta lì. Caro Parenzo, abbiamo con noi però un professore, una persona molto seria, che si aspetta un attimo. Io voglio essere sponsor personale di un grande convegno di sessuologia e di psicologia applicata che si terrà a Milano alla fine di novembre e si occuperà di diverse cose, tra cui una cosa particolare di cui abbiamo parlato spesso qui alla Zanzara. Il professore che abbiamo in collegamento si chiama Bernorio, si chiama Roberto Bernorio. Buonasera. Buonasera a tutti. Come andiamo? Molto bene. Allora, lei è il paladino, anzi no, il padrino di questo convegno, uno dei padrini di questo convegno, e farà una dissertazione su un argomento che è questo, lo vado a leggere, caro Parenzo. Anodispareunia, nuova disfunzione sessuale per la coppia. Cosa vuol dire l'anodispareunia, dottor Bernorio? Vuol dire provare dolore durante un rapporto penetrativo anale. Anale. Quindi, insomma, che cerchiamo un po' di occuparci anche di un altro aspetto della sessualità che non è così raro tra le coppie. Certo. Mi occuperò soprattutto della disparonia nelle coppie eterosessuali. Nelle coppie etero. Perché, ecco, la cosa fondamentale è un discorso molto nel neglect, diciamo. Allora, una domanda innanzitutto. Il sesso anale, secondo lei, tra le coppie è ancora un tabù? Nelle coppie eterosessuali, sì, un tabù limitato, però io le dico. Cioè, le donne, cito, quante donne lo praticano secondo i suoi studi? Allora, le cito i dati di una ricerca dalla quale poi è stata la produzione di un libro che si intitola Il piacere al femminile, da me scritto. Abbiamo preso 1.264 donne italiane e abbiamo chiesto con che frequenza hai mai avuto rapporti anali. Diciamo così, cominciamo sì, da questo. Sì, quante? Il 52% ci ha risposto di sì. Solo il 52%? Solo il 52%. Beh, però, è tanto, di meno, già un pochino più della metà. Certo. 52% delle donne hanno avuto rapporti anali, è tanto. Ma sei impazzito, è tanto. Mi sembra tanto, adesso non sono uno statistico. Però, scusi, però, professore, non so tanto. Se lei che tipo di. Quanti anni ha lei? Io ho 58 anni. 58, dunque ha avuto una vita sessuale, a meno che non sia stato monogamo per tutta la vita, sempre la stessa donna, avrà avuto una vita sessuale abbastanza normale. Beh, sono 58 anni, qualcosa, nel percorso si è strutturato. Ecco, io magari ho avuto sicuramente, avendo 51, ho avuto sicuramente rapporti sessuali più frequenti dei suoi, mi permetto di dire, perché lei è sposato? Sì, sono sposato. Da tanti anni. Sono, da tanti. Sono troppo impegnato sulla sociologia scientifica, non è quella applicata. Quella applicata alla pratica poco. Devo dire la verità che il 52% mi pare un po'... Cioè, no, ma è corretto, ma è ancora un paese indietro da questo punto di vista. È un Ma di cosa parli? È un paese indietro, è un paese arretrato. Ma il termine indietro lo userà il ministro Calenda quando parla dell'industria 4.0? Non su questi temi qui, è un paese arretrato, scusami. Io vorrei il 100%. Ma un paese arretrato sull'industria 4.0, non su questa roba dell'ANAL. Ma che discorsi sono? Professor Bernori, è una cosa molto seria. Oh, mamma mia, dove secondo è andata lei, sta bisogna... Filippina che va sempre in vacanza il weekend? No, ma è serio questo discorso, aspetta. Senta, guardi, le posso dare una buona notizia? Mi dia una buona notizia. Che sì. Dal punto di vista scientifico, se ci raffrontiamo con altri studi presenti in letteratura, sì. l'ultimo articolo che è stato pubblicato su una rivista importante nel 2016 ci riferiva sulla popolazione americana che in realtà la percentuale in America era del 37%. 37% in America? Troppo, 37% quindi, in America? Noi italiani siamo avanti di ma tutto, qui bisogna raggiungere 52. Ma bisogna raggiungere il 100%, professore. Intanto un passetto alla volta. Sarebbe bene raggiungere il 100%. Cioè, voglio dire, lo dica a tutti, perché qui abbiamo avuto ospite nell'ultima stagione della Zanzara, una dottoressa che si chiama De Mari, la quale ha detto tre cose tremende sul sesso anale che provoca delle lacerazioni, dei problemi incredibili, di prolasso anale, varie cose, lacerazione dell'ano, delle cose agghiaccianti. Dica qualcosa di positivo su questa cosa, spinga le donne a praticare il sesso anale, professore. No, così sarei di parte, nel senso che così non farebbe delle donne, perché le donne devono essere libere di scegliere. Ma quello va bene, quello d'accordo, quello d'accordo. Però vede che il 52% esprime bene il concetto di libertà di scelta, quindi diciamo l'importante è che una donna che sceglie di praticare la sessualità anale lo possa fare prima di tutto senza coercizioni, senza questo è fondamentale, e che poi abbia anche la possibilità di confrontarsi anche con una conoscenza, possiamo così dire, tecnica, perché questo è un tipo di rapporto che prevede anche alcune caratteristiche particolari, e soprattutto dobbiamo cercare di capire quanto questa cosa possa essere influenzata. Ecco, ma è doloroso secondo lei? Il sesso anale può essere doloroso? Sì. Non per tutti, può essere doloroso. Il senso della mia relazione sarà proprio questa. Noi dobbiamo considerare il fatto che una donna che ha desiderio di avere un rapporto anale e prova dolore durante il rapporto anale può essere considerata come una donna che ha un problema che potrebbe essere risolto. Ecco, ma esistono delle situazioni, scusi professore, esistono delle situazioni in cui praticamente non si riesce tra due esperti. Cioè il maschio tenta ma non si riesce, cioè non si riesce perché e come si risolvono questi problemi? Scusi, ma guardi, forse lei non lo sa, ma ci sono anche molti matrimoni bianchi, cioè non si riesce neanche nella via più tradizionale tentando di entrare alla vagina. Ma non credo. Però posso dirvi, scusatemi se mi intrometto in questa vostra augusta conversazione, però sono problemi seri. Il problema di questo paese non è questo, è la banda larga. La banda larga è un problema di questo paese. È la interconnessione, anche il culo è l'industria largo. 4.0. Anche il culo largo può essere un problema per molte coppie. Scusi, se lo dico in questa maniera brutale, professore. Riprendiamo dopo un brevissimo intervallo. Ma non c'è da riprendere. Con il professor Bernorio. Guarda, che è una cosa serissima questa cosa qua. Un sacco di coppie trovano dei problemi perché vogliono provare il sesso anale, ma non riescono, come nel caso del vaginismo, diciamo. No, cioè non riescono tecnicamente, ma ci può essere il metodo, e il dottor Bernoulli aiuta a superare tutto. Parenzo, tu sei il più grande culatore del mondo. Sei il più grande culatore del mondo. Cattiva! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Se mi dà la foto le faccio vedere la puttana che fotografa il cazzo Adriano. Le faccio riferimento a questa fotografia dove c'è Adriano che si è addormentato sul tavolo completamente ubriaco e questa puttana gli fotografa il cazzo che è in tiro in questo caso. Senta, lei lo sa dire pene o sa dire solo... Gli chiedo scusa. Un giorno in pretura, te lo ricordi David? Era stupendo. Come no, memorabile Fabrizio Corona, il suo interrogatorio, stupendo, sì, me lo ricordo. Allora, qui siamo all'over the top, cioè siamo a discorsi fondamentali che riguardano la vita di coppia, È una puntata speciale questa qua, in cui c'è un professore, un medico, un sessuologo. Credo che lei sia sessuologo, no, dottor Bernorio? Sì, sono un ginecologo, psicoterapeuta, sessuologo. Sono un ibrido. Un ibrido. Un ibrido, questo non è male. Allora, io mi faccio sponsor assolutamente ibrido, di questo ibrido di questo convegno di fine novembre, in cui in realtà non c'è da giocare, non c'è da scherzare. Si trattano, che ne dica Parenzo, si tratta di problemi fondamentali, di problemi importantissimi in ogni coppia, anche delle persone che non se ne interessano direttamente, anche di persone che alla fine tutti sono lì nella camera da letto, tutti si trovano di fronte, anche le coppie, quelle che stanno insieme da tanti anni, si trovano di fronte a questi dilemmi. Per esempio il sesso anale. Allora, dottor Bernorio, facciamo un piccolo riassunto. Che cos'è la quella che lei chiama la anodispareunia? Che cos'è anodispareunia, in sostanza? Anodispareunia significa provare dolore da parte della donna nel momento in cui sperimenta una penetrazione anale con il suo partner, e quindi provare dolore. E quante persone si... Ironicamente è un destino o un problema? Perché per qualcuno dice, tutte le donne sentiranno dolore, per qualcuno dice di no, e quindi io cercherò con la mia relazione di chiarire questo aspetto, cioè? Nel senso che è qualcosa che c'è in tutte le donne, o qualcosa che dobbiamo ritenere anomalo, che va curato? Quante donne si presentano da lei con questi problemi, per esempio? Beh, diciamo che stanno aumentando. La cosa interessante è che la famosa liberalizzazione sessuale qualche effetto lo sta dando, cioè? Quindi le persone praticano una sessualità che non avrebbero mai osato praticare magari molti 50 anni fa, sì? E oggi si pongono dei problemi Come si può superare tecnicamente, diciamo, il dolore della penetrazione anale? L'importante è capire che di fondo ci sia una predisposizione psicologica verso. Cosa perché ci sono capire? Alcune donne che dicono lo faccio solo come prova d'amore, non ci siamo, non va bene, poi il nostro non corpo ci siamo, più non si ci mette siamo. Di traverso, bravo, giustamente. Bravo, stiamo su bravo, quelle donne che invece hanno bravo. Il desiderio di sperimentare, sì. E poi sperimentano un dolore, allora dobbiamo prima di tutto escludere delle cause organiche, delle fistole, delle emorroidi, di altre cose. Mamma e poi dobbiamo talvolta aiutare le donne a liberarsi da quella che è una contrazione involontaria della muscolatura dell'ano, sì. Proprio perché c'è un po' di paura. E come si fa? L'aspetto più riabilitativo. Ecco la domanda, quasi. E come si fa? Il bravo studente curioso. Certo. Come si fa ad evitare questa contrazione che impedisce, come dire, al pisello di fare il suo percorso naturale, diciamo. Prima di tutto è importante che il partner sia... ovviamente si approccia al tema con una certa delicatezza, che venga utilizzato un lubrificante, perché la regione anale non è in grado di lubrificarsi autonomamente, che ci sia il consenso, l'abbiamo già detto, ma ci sia anche molta progressione lenta, ovvero va disteso lentamente e progressivamente, perché ogni forzatura produce degli effetti negativi. Progressione arrivato, champagne in progressione arrivato, tartine e champagne in progressione arriva, champagne fletto tartine con salmone, non è una... in progressione, aspetta. Non lenta, veloce, tartine e champagne, però, tartine aspetta. Champagne in progressione velocissima. Dottor Bernorio, mi scusi, però lei fa una lei parla di una progressione lenta, non è che può essere la sessione dal meccanico o dalla, no, cioè, se no altrimenti uno non finisce mai, ci deve essere anche un minimo di velocità in queste cose, altrimenti ci vogliono solo dei superuomini. Dipende qual è il suo parametro, il suo tempo, non lo so. Quanto dura mediamente, scusi, un suo rapporto sessuale? Beh, può durare anche 40 minuti, amico mio. Allora diciamo che ha tutto il tempo. Dottore, ha sempre detto portare veloce, tartine e champagne, in progressione, veloce. Dottore, ha sempre detto, servile insieme. No, prima champagne, avrebbe già dei problemi. Sì, certo, non c'è dubbio. La questione è molto semplice anche. Può esserci quell'elemento di sporcizia di cui parlava la dottoressa De Mari nel sesso anale, cioè ci può essere un elemento, ecco, le feci, per esempio, no? La dottoressa De Mari, questo non c'entra molto, ma anche dal pene esce l'urina, cioè che non è propriamente avere sul piatto di portata, quindi evitiamo questo tipo di confusione. La sporcizia forse è più un'idea di sporcizia mentale, e questa va rispettata, perché esiste una morale che ognuno di noi ha. Ci sono persone che ritengono questo tipo di attività qualcosa di contro natura. Beh, no, questo non va. Dobbiamo anche rispettare le visioni del mondo diverse. Rispettare contro natura la sodomia è una cosa ridicola, dai, diciamo la verità. Non è ridicolo, insomma, io lavoro per il rispetto di tutte d'accordo, le persone, però. Quindi non prendo parte, non sono allo stadio, non tifo né per l'Inter né per il Milan, ma per il benessere delle persone. Ma lei consiglia sempre una protezione oppure no? Assolutamente sì. La sempre, anche tra persone che sono, hanno rapporti tra, costanti, diciamo. Cioè anche... Assolutamente, perché diciamo che c'è un rischio importante per il maschio, perché di fatto il pene si trova con la mucosa dell'uretra, da qui esce l'urina, si trova confrontato con dei batteri, per pure cui nei confronti dei quali non è capace di difendersi, quindi possono avere prostatiti, grossissimi problemi. Quindi utilizzare il preservativo è fondamentale. Sempre, anche nelle coppie fisse. Anche nelle coppie fisse. Anche nelle coppie stabili, anche nelle coppie fisse. Hai capito, Parenzo? Hai capito, Parenzo? Nelle coppie stabili, capito, come la tua, va utilizzato sempre il preservativo, anche in questi casi, sempre. Dunque, tutte le coppie all'ascolto che fate sesso anale, utilizzate sempre una protezione, altrimenti so cazzi, giusto, professore? Potrebbero essere... Dottore, usa sempre protezione per champagne, per bottiglia di champagne, usa protezione per mantenerlo freddo. Ho capito, ma cosa vuol dire questo? Comunque, guardi... Non per mantenerlo freddo, per mantenerlo gasato, nel senso che se le apre una bottiglia di champagne e non lo tappa, poi si sgasa. Questo è fondamentale, caro Parenzo, assolutamente. Comunque, ecco, no, diciamo la verità, non fa schifo il sesso anale, non deve fare schifo. Cioè, non deve essere una cosa vista come una cosa negativa, come una cosa schifosa, come non una cosa animalesca. Né un divieto, dimettiamola così. Deve essere una libera scelta, ma che certo, come tantissime altre cose una persona molto può bene mettere in atto nel suo percorso di vita. Bene, arrivederci, viva la libertà. Buona serata a tutti, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Francesca da Varese, vai. Salve. Dimmi, io Francesca, volevo dire la mia anche su questo tema. Quanti anni hai, Francesca? Scusa. 27. Molto bene, vai. Gente sì, giovane, gente fresca qui, non vecchi dei 70 anni. Per carità, con tutto il rispetto, per carità, con tutto il rispetto, che sono anche una parte importante di ascoltatori. Però Francesca da Varese mi sembra interessante. 27 anni, di cosa volevi parlare? Di sesso anale, Francesca? Sì, a proposito appunto del dolore che si può provare. Tu l'hai provato, lo provi, lo pratichi? Allora, non lo pratico assolutamente abitualmente perché... Amica mia. Vabbè, sono... comunque hai tempo, sei sì, giovane, hai tempo, per carità. 27 sì, anni. E allora? Però volevo dire che anche gli uomini, da parte sì, loro, possono provare qualcosa, parlo di relazioni comunque eterosessuali. Che perché... vuol dire? Scusami, spiegami. Ci sono coppie, ho fatto anch'io comunque questo tipo di esperienza, in cui gli uomini hanno piacere a... avere, o non so, un dito infilato dalla vabbè, partner. Ma questo si è capito, questo si sa. Allora che discussione è, signora Pia, che discussione è? Questa cosa qui le aveva mai fatto dolore? Perché ogni tanto, persino ogni questo, tanto sì, è vero, assolutamente, ecco, quindi, sì. E dunque un dito è molto più sottile di... Ma dunque che vuoi dire con questo? Che hai paura? Tu hai paura, questa è la sostanza, hai paura. Cioè questo è Francesca da Varese, no, 27 no, anni. Non è questione di paura, hai questione paura che di affrontare. È una cosa oggettiva che si sì, prova. Però tu hai, non è... Sì, è vero, però tu hai paura di affrontare l'ignoto. Questo è il punto. Hai paura di affrontare non questo non mondo ignoto. Io l'ho affrontato pure, no, hai paura di affrontare dirlo, questo mondo ignoto. Tu me l'hai detto che non hai provato ancora. No, ho detto che non lo faccio abitualmente. Ah, l'hai provato allora? Sì. Hai ho provato avuto dolore? Anche problemi, ho avuto ragadi, ho avuto. Le ragadi, beh, che bella, sì, che bella cosa. Mi piace mamma questa parola, mia, ragazzi. Ragadi, ma cosa ragadi vi spinge? Cosa vi spinge a dire queste cose in diretta radiofonica? Cosa vi spinge, fratelli e sorelle miei? Cosa vi spinge a dire queste porcherie in diretta? Ma che alle porcherie? Ho avuto le ragadi, Francesca. Facciamo lo sta raccontando. Un distingo perché queste non sono porcherie. Esatto, brava. Oltre alle malattie sessuali, venere, eccetera, ci sono anche i disturbi che possono venire semplicemente per mancanza di lubrificazione, brava, per sensibilità della pelle. Però io ti inviterei... personalmente ho una pelle molto sensibile, evidentemente pure anche lì. Ma hai un rapporto fisso tu oppure sei... Come sì, dire, sì, sì, ho il mio ragazzo... È il tuo ragazzo, no, con cui praticate, però adesso questo stop che sì, c'è stato evidentemente è provocato da una reazione tua. Sì, è di grande difficoltà, sì, capisco, di grande difficoltà, nel senso che adesso dopo qualche esperienza, le ragadi e tutte queste cose qui, hai un problema, che è quello sì, psicologico. Comunque secondo me il partner deve anche capire... No, a parte quello psicologico, il partner deve anche capire che ci sono limitazioni fisiche oltre alla paura, perché io personalmente non ho assolutamente nessun problema a sperimentare, però finché non si prova non si può sapere, cioè magari anzi, beh, ho capito, però adesso c'è stato un trauma, dolore, no? C'è stato un cosa... trauma, il dolore si può trasformare in piacere innanzitutto trauma, per molte persone, no? Però questo trauma adesso per te rappresenta uno stop, diciamo, uno stop sì, importante. E secondo me è molto difficile per il partner riuscire a mettersi nel come che si dice, riuscire a capire qual è il dolore che si può provare. Sì, però io voglio capire cosa hai provato tu. Cioè, adesso questo dolore ti ferma, ti stoppa, ti blocca psicologicamente, ti fa pensare no, non lo voglio più provare. Il tuo fidanzato invece insiste, questa è la dinamica. Ah, sì, beh. Mi interessa la dinamica, non interessa apparenza. A me queste dinamiche interessano. Invece il tuo fidanzato evidentemente spinge verso questa direzione. Lo capisco, no? Sì, perché sono due esperienze diverse, sia da parte mia che da parte sua. Ecco, però cerca scusami, prova, se sì. ti do un consiglio, cerca di non trasformare questa cosa in una guerra, perché accontentalo anche parzialmente, perché altrimenti questa cosa va a finire a scala parte. Però prima il medico, se non sbaglio, ha detto un'altra cosa, ha detto che non bisogna farlo per amore. No, non bisogna farlo per dovere, ha detto. Però ha il medico dice la sua. Io lo faccio come prova d'amore, quella è una cosa ma sbagliata. Ma no, quello no. Però, amica mia, cerca di superare questa cosa psicologica, perché poi la liberazione, l'apertura, detto in tutti i sensi, sia mentale che fisica. Sì, però secondo me la liberazione è una liberazione profonda, è una liberazione totale. A un certo punto ti sentirai nella dare soddisfazione da questo punto di vista e avere soddisfazione, dare che mi vuoi far vedere tu? Che mi vuoi far vedere? Cioè, no, io voglio solo dire che alcune cose, cioè questo tipo di rapporto qua non è una cosa che si può fare abitualmente, almeno sì. Io non ho la allora mi dicono, scusami Francesca, qui mi portano consigli su consigli, perché evidentemente quando parliamo di politico, di cose che interessano a Parenzo, stiamo parlando di infrastrutture strategiche, esatto, del paese. Esatto, le infrastrutture strategiche, c'è dire i culi. Allora, la cosa fondamentale è questa: mentre si parla di politico, di altre cose, di immigrati, non fotte un cazzo a nessuno, qui c'è gente che se ne va, eccetera. Adesso che parliamo di culi e di ragadi e di inculate, c'erano tutti, ecco, tutti qui, sì, presenti, non se ne è andato, non se n'è andato nessuno. Però allora, il consiglio che viene da una signora che si chiama Donny, un ragazzo che si chiama Donny, amico del signor Longoni, è questo. Dovete considerare sta tipa che sta parlando adesso, i conetti Dilatan. Cerca conetti sanitari per dilatazione progressiva dell'anno. 3 conetti di misura crescente, 40 euro testato, 10 più e il voto. Mamma, immagino, il signor Donny. Anni questo Donny? Quanti anni ha questo Donny? 28 anni è la tua età, cara Francesca. Allora, io consiglio al tuo ragazzo questi conetti Dilatan. Donny Dorelli. No, Donny sarà un soprannome, certamente. I ragazzi oggi a 28 anni, a 30 anni, non è che si chiamano David, Giuseppe, cioè, si chiamano Donny, Teddy e queste boiate. Si è spento il telefono, Longo? No, ci sono. No, il telefono di Longoni. Comunque, ah, okay. La questione è molto semplice. I conetti che dilatano. Vuoi andare in farmacia? Mi posso incaricare di questa cosa per conto del tuo fidanzato, se vuoi, Francesca? Sì, io non ho capito se sono tipo i dilatatori, quelli che si vedono. Mamma mia, amica mia, però basta con queste domande nello specifico. Telefoni a Cruciani in privato, la risolva col suo fidanzato, ma non ci può il venerdì del weekend su Radio 24 ammorbare con i dettagli dei conetti e i mica conetti. Sono delle porcherie, ragazzi miei, risolvetevele a casa vostra. Allora, i conetti sono un consiglio che è venuto dal signor Donny, zio Donny, 28enne, credo, della Brianza, amico del signor Longoni, il quale adesso mi sta riportando al telefono con una successiva e ulteriore conversazione, anzi no, è la stessa. Dilatan. Allora, Dilatan, prendi appunti, scusa Francesca, prendi appunti. Sì, tuo fidanzato non c'è là vicino? No, non c'è là vicino il tuo fidanzato. C'è il tuo fidanzato o no là vicino? Sì, c'è, certo. C'è il tuo fidanzato, passami il tuo fidanzato, un attimo così. Ok, io va bene, Ale. Ale? Pronto? Ale, allora, prendi questi appunti. Ma che coppia è? È una coppia normale. È una coppia normale, parente. Bravo. Come ti chiami tu? Come ti chiami? Alessandro. Allora, prendi qua un consiglio che viene da Donny, un ragazzo di Milano di 28 anni. Alla radio? Sì. Delle loro amplessi fatti dall'infrastruttura, quella delle di spalle, ma ragazzi, amore, ma non è incredibile. Allora, sì, come ti chiami, scusa? Che mi sono scordato. Come ti chiami? Alessandro, scusami, ho l'Alzheimer, detto con rispetto di tutti i malati di Alzheimer veri. I conetti Dilatan, prendi appunti, conetti sanitari per dilatazione progressiva dell'ano, 3 conetti di misura crescente, 40 euro, cioè misura crescente a seconda naturalmente del problema che ha la tua fidanzata. Testato 10 più, ha testato questo signore che evidentemente aveva un problema con la sua fidanzata e con le sue parti. Devo dire che comunque, cioè, io vivo la mia sessualità molto bene, nel senso che anche se non funzionale, comunque. Cioè, ho capito, però ci hai provato, è andata male perché gli hanno preso le ragadi e sono arrivate le ragadi. Ti stiamo dando un consiglio concreto, adesso sto vivo bene. No, ci sta, vivo bene. Io però rispetto comunque anche il parere di Parenzo, che queste, diciamo,